versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui in diretta agli studi di Milano della Radio. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, per scaricarci in podcast. Vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per proporre temi di puntata e di interventi diretti vostri, e vi ricorda il numero di telefono per intervenire oggi stesso in diretta all'800 24 00 24, o per gli sms 3492386666. Di che cosa parliamo? Di una novità di giornata che però apre una questione non solo per il caso a cui si riferisce, anche se naturalmente essendo una sentenza si riferisce innanzitutto e strettamente al caso. E una nuova sentenza, dopo quella della settimana scorsa che molto ha fatto discutere anche noi, della Corte Europea dei Diritti Umani, la settimana scorsa si è pronunciata sulla tortura nel caso del G8 2001 a Genova, e stamane la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta sul caso di Bruno Contrada. Bruno Contrada, funzionario del SISD, che alla vigilia del Natale 92 è stato arrestato in Italia e poi inviato a giudizio per concorso esterno in un'associazione mafiosa, condannato a 10 anni di carcere. La condanna è venuta nell'aprile del 96, la Corte d'Appello ribaltò quella condanna a 10 anni nel maggio del 2001 e quindi fu assoluzione, se non che la Cassazione poi rinviò gli atti a Palermo, e a Palermo nuova condanna, questa volta nel 2006, a 10 anni di carcere. Dopodiché quella condanna di 10 anni di carcere nel 2006-2007 venne confermata dalla Cassazione e Bruno Contrada ha scontato la pena in carcere, poi con i domiciliari il fine pena avvenuto nell'ottobre del 2012. Ecco, la Corte Europea dei Diritti Umani dice che Contrada non andava condannato perché al momento dei fatti imputati il reato in concorso in associazione mafiosa, in concorso esterno in associazione mafiosa, era un reato vago, e quindi in questo, oltre che nel caso in sé, cioè relativo alla condanna che molto ha fatto discutere di Bruno Contrada, che si è sempre battuto e continua a battersi alla sua non verde età per una revisione totale del processo oggi, ma al di là di questo e quindi del caso Contrada, c'è da approfondire un tema generale che è quello di questo particolare delitto, cioè del concorso esterno in associazione mafiosa. Notate bene, io da garantista mi sono sempre spesso criticamente, ma questo vale poco, bisogna sentire. Adesso vi presento i due ospiti, gente che ne sa di più naturalmente della mia posizione personale, ma non mi ha mai convinto, perché questi reati associativi sono una caratteristica del nostro ordinamento. A dire la verità, sono entrati nel nostro ordinamento penale inteso come italiano, non di Repubblica Italiana, ai tempi del codice penale sabaudo, e ci entrarono all'articolo 416 del codice penale sabaudo per consentire gli arresti e le condanne in buona sostanza dei briganti meridionali. Così i reati associativi entrarono nel nostro ordinamento, e dopodiché vennero usati col codice Rocco e con il fascismo, l'articolo 270 del codice penale Rocco, come associazione sovversiva. Furono usati prima dal fascismo, ovviamente, per la repressione antifascista. Dopodiché abbiamo avuto i reati associativi nella legislazione repubblicana contro il terrorismo, e poi abbiamo avuto dalla legge La Torre in poi, nel 1982, contro la mafia e le organizzazioni, quindi mafiose e camorristiche, prima con la legge La Torre e poi nel tempo, diciamo così, invece che con una chiara codificazione normativa, siamo arrivati al concorso esterno per via, per così dire, giurisprudenziale, con un'applicazione estensiva dell'articolo 110 sul concorso nei delitti. È un delitto con condanne molto gravi. Nella giurisprudenza da allora, poiché si tratta di un un'ipotesi di delitto applicata a casi che hanno fatto molto discutere, a casi politici, il caso dell'Utro, il caso Mannino, e quindi con condanne o assoluzioni sulle quali ogni volta i media italiani si sono divise, l'opinione pubblica italiana si è molto divisa. Nel frattempo la giurisprudenza ha accumulato tutta una serie di sentenze in cui è diventato ancora più estensiva la nozione del concorso esterno in associazione mafiosa. Per capirci, e non per parlare in gergo tecnico, è applicabile a persone che non fanno parte in alcun modo né a reti attraverso affiliazioni formali eccetera eccetera, ma che mettono in atto comportamenti tali da poter essere integrati e giudicati a giudizio delle corti come facente parte integrante di affari fondamentali a giudizio della rete criminale o mafiosa, nei confronti della quale a quel punto scatta questa ipotesi per l'indagato e per l'imputato, con condanne che possono essere gravissime, ma prove rispetto a una definizione così scivolosa che inevitabilmente ogni volta dividono, fanno discutere, e che nel caso di Bruno Contrada, quindi un funzionario dello Stato, del SISDE, nella Palermo, rispetto al quale ancora oggi, lo sapete, nei lunghi filoni della trattativa Stato-mafia che dividono la procura di Palermo e che hanno, fino al presidente Napolitano l'anno scorso, creato innumerevoli polemiche anche istituzionali, in quella temperie oggi la Corte Europea dei diritti umani dice che Bruno Contrada non doveva essere condannato per quel reato. Tenete conto che già nel 2014 la Corte di Strasburgo aveva condannato, sempre sul caso Contrada, l'Italia, ma per come era stato detenuto, quindi era per l'ingiusta detenzione. Questa volta si pronuncia invece sul delitto. Tentiamo di capire con voci diverse sul caso Contrada, ma sul reato di associazione, concorso esterno, associazione mafiosa, quanto questa sentenza può fare un po' di chiarezza su un'imputazione che così tanto fa discutere da decenni il nostro paese. Allora, per parlare abbiamo innanzitutto invitato l'avvocato e difensore di Bruno Contrada, l'avvocato Giuseppe Lipera. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio a voi. Allora, la pronuncia di Strasburgo, innanzitutto, da quello che ci è noto e che è noto a lei, è solo sul caso in sé, oppure, come sembra dai lanci di agenzie, è anche una pronunzia sul concorso esterno in associazione mafiosa? Oh, guardi, io l'ho letta poco fa questa sentenza, anche perché non mi sono occupato di questo problema, mi sono occupato di farlo dichiarare innocente in Italia, poi se vuole ne parliamo. E la sentenza dà per buono, che cosa io contesto, che la norma fra virgolette creata dalla giurisprudenza risale a un periodo successivo ai fatti che vengono contestati a Contrada. Quindi, in base al principio generale del tempus regit actum, significa che uno non può rispondere di un reato se prima non c'è una legge. Non va applicata a Bruno Contrada. La prima sentenza che erroneamente recepì questo discorso qua è la sentenza, famosa sentenza di Nite, per noi diciamo che te lavori famosa, che risale al 1994. Contrada viene arrestato nel 92, i fatti che gli si contestano sono degli anni 80. La sentenza del 94 è quella nella quale entra nell'ordinamento sia pure per via giurisprudenziale. Ma è una bestemmia perché l'ordinamento italiano prevede che le leggi le faccia il legislatore, il magistrato faccia il magistrato. Però è come l'abuso di diritto, anche lì non c'è nel codice, però in termini di è diventato un reato tributario. Però purtroppo funzioniamo così nel nostro paese. No, non bisogna rassegnarsi. Non sono d'accordo, per me era e resta una nostrosità giuridica. Si figuri comunque, se deve convincere me. Comunque, allora, se fosse solo così, quindi intanto la Corte di Strasburgo dice era impossibile condannarlo perché comunque il concorso esterno dal 94 entra, voglio dire, nel nostro paese. Con queste riserve. Sia pure con queste riserve, mentre lui viene arrestato nel 92 per fatti precedenti. Per fatti che risalgono agli anni 80. E quindi non sotto questo profilo. Allora, prima domanda, ma come mai nessuna delle corti di fronte alle quali lei si è battuto, il dottor Contrada si è battuto, hanno fatto la minima attenzione a questa, non mi sembra così poi secondaria circostanza? Guardi, io non conosco Contrada che era già detenuto definitivo, quindi non ho partecipato. Ma i gradi precedenti di giudizio? Nei gradi di processo, una cosa mi dispiace molto. Comunque io l'ho conosciuto dal detenuto definitivo, era il dicembre del 2007, fece una battaglia bestiale con la magistratura di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che di Napoli, riuscì dopo 46 istanze a luglio, 7 mesi dopo, a portarmi a casa e a salvargli la vita perché non aveva... Allora io la fermo qua perché innanzitutto, e poi ci risentiamo mentre torniamo sul caso Contrada con lei, perché c'è il collega specialista in giudiziaria e in procedura che scriverà oggi su Domani esattamente su questa sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Contrada, che si è reso disponibile per telefono, Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Buon pomeriggio e grazie Giovanni. Buongiorno a voi. Allora, da quel che si comprende della pronunzia di Strasburgo, fino a questo momento l'avvocato Lipera ci ha detto è una sentenza che dice non poteva essere condannato Contrada perché comunque, sia pure attraverso una sentenza che però è successiva all'arresto di Contrada nel 92, Contrada non poteva essere giudicato e condannato per il reato di concorso esterno. Quindi sembra una pronunzia che non investe il concorso esterno in associazione mafiosa in quanto tale, in quanto reato vago ed entrato nel nostro ordinamento per via giurisprudenziale e non nel codice, ma fa esclusivo riferimento al caso specifico. Tu sei d'accordo, da quello che capisci, sei d'accordo con questa interpretazione o c'è qualche cosa che riguarda anche il concorso esterno su cui da decenni ci dividiamo a ogni processo importante? Anzi, da quello che sto leggendo, perché stavo leggendo proprio in questo momento la sentenza della Corte, la Corte non entra nel merito del concorso esterno, lo spiega, cioè lo specifica, e dice che non è suo compito entrare in questo, semplicemente dice che l'evoluzione giurisprudenziale, perché il reato di concorso esterno nel nostro codice penale non esiste, però è una cosa che è andata avanti a partire dal rinvio a giudizio del maxi processo, fu Giovanni Falcone stesso a dire che bisognava lavorare su questo concorso esterno perché esistevano delle figure di fiancheggiatori, di personaggi che non facevano parte a titolo integrante, diciamo così, dell'organizzazione mafiosa, ma che però contribuivano a favorirne l'affermazione. E quindi da quel momento in poi si è cominciati a lavorare su questo e poi sono stati fatti i processi. Ora però io credo, e questo ha sostenuto il governo italiano nella causa che si è discussa a Strasburgo, il problema è che l'articolo 110 e l'articolo 416 bis, che sono i due articoli del codice di procedura penale, del codice penale, che quelli esistono l'uno da 1930 e l'altro da 1982, quindi i due articoli esistevano prima delle condotte di Contrada, per la parte precedente all'82 poi esisteva il 416, cioè l'associazione a delinquere normale, e quindi loro contestavano reati a giudizio dell'Italia già esistenti. È l'interpretazione per cui il grado, diciamo così, della azione del concorrente esterno che integra poi il reato disposto da questi due articoli che è successiva, l'interpretazione giurisprudenziale che ha stabilito quando si arriva al reato e quando invece no, quando è troppo poco e quando è di più, insomma, adesso l'asticella. No, tu sai, non devo dire a te, ma lo dico per chi è in ascolto, che noi abbiamo avuto un'evoluzione della interpretazione e poi delle sentenze applicative del concorso esterno, per esempio nel caso Mannino, che poi fu assolto per questo, in cui siamo arrivati a distinguere il concorso esterno diretto in associazione mafiosa, il concorso esterno indiretto in associazione mafiosa, con un enorme capitolo aperto interpretativo su come questo per esempio possa essere applicato a politici in caso non di espliciti episodi di concordanza di voti di scambio, ma di incontri o attraverso anche terze persone che potessero comunque configurare l'ipotesi di successivi poi favori elettorali in cambio di altri favori. Quindi diciamo è diventata un'interpretazione di sentenza in sentenza via via sempre più tesa, a mio giudizio scivolosa come il sapone. Non so come la pensi tu, Bianconi. No, ma certo che è scivolosa, perché qui stiamo parlando anche delle intenzioni delle persone, oltre che dei loro comportamenti, quindi è evidente che è scivoloso in sé. Soltanto che l'ultima sentenza che ha condannato Contrada, per esempio, faceva riferimento anche alla sentenza Mannino, sì, a Sezioni Unite, che diciamo così fa stato attualmente in Italia, secondo l'interpretazione della Cassazione, no? E quindi da questo punto di vista l'evoluzione dell'interpretazione è stata applicata a fatti che però, secondo perché poi anche questa questione è stata posta durante i processi di merito e poi in Cassazione. Cioè, questa questione che adesso è stata posta alla Corte di Strasburgo era stata posta anche prima, durante i processi, dagli avvocati difensori di Contrada, durante i processi di merito. E però le corti italiane hanno ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale non ha a che vedere con la contestazione, perché il reato era precedente al fatto commesso. Il 110 e il 413 bis erano già esistenti all'epoca in cui i fatti contestati a Contrada sarebbero stati commessi. Quindi da questo punto di vista si può anche dal punto di vista dello Stato legittimamente sostenere che in realtà la condanna disconosce che i due articoli del codice penale preesistevano più che ampiamente ai fatti, e quindi in quanto tale lo Stato si è battuto in questa sentenza alla Corte di Strasburgo anche in coerenza alle ripetute pronunzie della Cassazione nel frattempo intervenuta. È così, vero Bianconi? È esattamente così, perché nei processi di merito e di legittimità questa questione era già stata affrontata e risolta dal diritto italiano, diciamo così. Adesso ti faccio invece una domanda, perché so che devi andare subito via. Ti faccio una domanda da osservatore, da commentatore, oltre che da cronista da molti anni di queste vicende. Secondo te questa sentenza e tutto quello che è avvenuto nel tempo intorno all'associazione esterna mafiosa pone una questione di un intervento legislativo chiarificatore oppure no, secondo te? Ma forse sì e forse no, nel senso che nel frattempo appunto ci sono state tali e tante sentenze, compresa quella Mannino, che è quasi una norma di legge ormai, proprio perché è stata fatta a Sezioni Unite, che la questione dal punto di vista giuridico sembra abbastanza chiara. Poi nelle varie commissioni di riforma si è sempre detto che era meglio scriverlo sto reato di concorso. Però tutte le volte la politica l'ha detto e poi non l'ha fatto. Esattamente. Ma perché è difficile poi farlo, un conto è dire le cose, un conto è farle. Diciamo che così però ci affidiamo un po' troppo, qui parla il garantista, non voglio convincere nessuno. Ci lasciamo al fatto che siamo i reati interpretativi, è come l'abuso di diritto in termini di diritto tributario. Allora io intanto ringrazio Bianconi. Vorrei far notare un'ultima cosa, che c'è una apparente, non dico contraddizione, ma comunque stranezza in questa sentenza, perché afferma un principio che sembra così tassativo, no? Il fatto che uno è stato condannato per una norma che non c'era, dopodiché condanna l'Italia a 10.000 euro di risarcimento rispetto a una condanna a 10 anni scontata, diciamo che sembra 10 anni di carcere, una condanna neanche. Allora su questo io mi riservo di capire ancora meglio, di approfondire, perché va sembra bene. Un principio però va bene, le conseguenze non sono all'altezza della gravità del principio leso, e allora forse anche il principio leso chissà che cosa hanno pensato davvero. Vediamo, e intanto io ringrazio te, torniamo tra 60 secondi con l'avvocato Lipera, intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, stiamo parlando della sentenza stamane della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso di Bruno Contrada. Non doveva essere condannato perché, dice la Corte, il concorso esterno e associazione mafiosa attraverso sentenza entra nell'ordinamento italiano, ma dopo il suo arresto e naturalmente dopo i fatti per cui è stato indagato, imputato e condannato. Ma avete sentito Giovanni Bianconi, dice no, però i due articoli che precedono la sentenza che a quel punto dà, per così dire, l'inizio all'associazione, al concorso esterno all'associazione mafiosa, erano preesistenti, erano nei codici preesistenti, uno negli anni 30, l'altro dall'82, e quindi ha un fondamento, soprattutto alla luce del fatto che la Cassazione oramai con la sentenza Mannino ha pronunciato l'equivalente di un vero e proprio testo di legge che identifica gli estremi del concorso esterno all'associazione mafiosa. Che dice l'avvocato Libera di queste considerazioni? Io dico che se avesse ragione Bianconi bisognerebbe abolire il Parlamento, quindi togliamo la Camera, togliamo il Senato e fanno tutti i giudici, fanno tutto loro, non c'è bisogno del Parlamento in Italia. Ma che ragionamento fa Bianconi? Che ragionamento fa? Allora iniziamo col dire, non sono il primo a dirlo, c'è stato un illuminato che si chiama ancora vive, quasi 90 anni, Mauro Mellini. Cominciamo con lo spiegare che è una schifezza il 416 bis. Leggiamo il 416 bis. Il 416 bis, la norma fatta sull'onda emotiva della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sanziona gli appartenenti all'associazione mafiosa, no? Come se fosse il club di Topolino, come se fosse un Lions, un Rotary. No, noi dobbiamo rifarci al 416 normale, l'associazione a delinquere, che va a colpire coloro i quali si riconoscono per commettere reati. Invece abbiamo tanti processi dove esclusivamente 416 bis, cioè uno fa parte così per hobby di un'associazione mafiosa, quindi già il 416 bis è una norma assolutamente lacunosa. Poi c'è stata questa invenzione, io gliene dico un'altra invenzione. Una volta c'è un magistrato a Catania che si inventò il tentato omicidio colposo, fortunatamente non gli hanno dato seguito. Io rileggo dopo tanti anni un intervento di Giuseppe Ayala, il quale si autodefinisce l'inventore di questa norma, che a metà fra il povereggiamento personale e il 416 bis. Ayala stesso dichiara al Velino nel 2010: io mi pento di averlo fatto, perché poi si era fatto un uso spregiudicato. Vedremo comunque, avvocato, che cosa avverrà, perché io non mi meraviglierei se l'interpretazione invece prevalente sarà esattamente quella del collega Bianconi sul Corriere della Sera. Del resto noi liberali garantisti siamo minoranza e non ci resta che far levare la nostra voce senza avere troppo la presunzione di convincerla. Però intanto un abbraccio al dottor Contrada e grazie anche a lei. Contrada 24, appuntamento con me a domani.